Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di manager e lo facciamo con Paolo Iacci. Buonasera Paolo. Buonasera. Iacci. Paolo Iacci si occupa praticamente da sempre di manager, insegna all'Università Statale di Milano, è stato consulente di direzione, è consulente di direzione, cura una rivista su internet sulle risorse umane e quindi HR online, HR come dicono HR. Quelli che sanno, che parlano l'inglese e poi ha scritto anche vari libri, alcuni seri, alcuni meno seri. Quest'ultimo libro è L'alfabeto del leader, compendio semiserio per manager colti. Quindi questi due aggettivi, semiserio e colti, già indicano un po' la direzione del libro, di questo libro. Perché ha scritto questo libro Paolo Iacci? Ma allora, per due motivi. Il primo è proprio di stile, cioè in Italia non si leggono quasi più libri di management o di organizzazione. Un po' dipende dal fatto che si pensa che le imprese, le organizzazioni si possono condurre con tanta pratica e poca intelligenza, e questo è sbagliato. E un po' anche perché i libri di management sono sempre molto noiosi. Allora io ho provato a scrivere dei libri anche un po' appunto semiseri, sì, con delle storie. Questo si rivolge anche un po' a quelli colti, perché queste spigolature molte volte sono prese da... Sì, da generi letterari, appunto da il contenuto parte dal fatto che c'è, a mio avviso, una classe dirigente. Infatti il primo dei racconti titola proprio A classe dirigente cercasi, perché c'è una classe dirigente, secondo me, in Italia, per vari motivi, che fa fatica ad esprimersi e soprattutto non si prende le sue responsabilità. Dobbiamo chiederci se c'è una classe dirigente poi in questo paese, perché in molti casi qualche mancanza ovviamente c'è sul fronte delle... Sì, devo dire che non solo nel nostro paese, adesso si parla in questi giorni soltanto di Brexit, ma sicuramente un elemento che lì emerge è il fatto che si è chiesto ai cittadini di... dire qualche cosa in merito a un argomento molto complesso su cui forse anche quella classe dirigente se ne è lavata le mani e non si è presa davvero fino in fondo le responsabilità di scelte, insomma, no? Ecco, questo libro è proprio un compendio, essendo che è quasi un vocabolario, ha una parola, un capitolo per ogni lettera dell'alfabeto, si va da A classe dirigenti cerca, si ha Z come Zululand. Zululand che cos'è? Zululand è la terra degli Zulu, nel senso che allora c'è stata una battaglia, stiamo parlando di secoli fa, in cui gli invasori, in questo caso gli inglesi, avevano perso una battaglia contro la popolazione locale, ovviamente poco attrezzata, per una serie di problemi organizzativi. E quindi io prendo spunto dalla storia di questa sconfitta per capire i problemi organizzativi che ci sono tuttora nelle aziende italiane, e ce ne sono molti. Lì, perché per avere delle munizioni bisognava firmare dei moduli, e allora sotto, quando c'era la battaglia che infuriava, il comandante non aveva il tempo di firmare dei moduli, ma chi poi doveva consegnare le munizioni se non c'erano i moduli non li consegnava. Piuttosto che non le casse per sicurezza erano state chiuse, eccetera, e non avevano i mezzi per aprirle, e quindi c'era una serie di problemi legati a queste stupidaggini. Ecco, questo vuol dire che, per esempio, nelle aziende le procedure hanno ancora una grande capacità di influenzare il lavoro delle persone. La procedura è una grande difesa, si è fatto sempre così, si fa così, ci sono delle regole, io faccio quello. Soprattutto nelle organizzazioni pubbliche la procedura è sacra. Assolutamente sì, ma noi lo vediamo anche in questi giorni, quando si parla della riforma della pubblica amministrazione. C'è sempre qualcuno che dice: bello, ma in questa riforma manca il modulo X. Sembra che tutto si riduca poi all'utilizzo di alcuni strumenti, quando invece il problema è il senso del nostro operare. C'è una pubblica amministrazione, ad esempio, che è allo sfascio, allora qui si prendono dei provvedimenti molto seri, drastici, oppure... Beh, di solito quando c'è un problema si fa una commissione di studio che studia il problema e poi dà delle indicazioni che nessuno raccoglie probabilmente. Sì, ma questo anche poi nelle aziende, cioè se vuoi incontrare gente, non prendere nessuna responsabilità, trastullarti con dei grafici, eccetera, indici una bella riunione. Ecco, ma le riunioni servono soprattutto a perdere tempo, questo appunto è vero nelle grandi imprese, e questo poi dimostra in fondo che è uno dei problemi principali, come dice anche il titolo di questo libro, L'alfabeto del leader. Il vero leader non avrebbe bisogno di riunioni, soprattutto di riunioni ripetute, lunghe, noiose, che servono solo a far sfogare le persone. Le persone in realtà non comprano, tra virgolette, le cose che noi facciamo, comprano prima di tutto il motivo, l'idea che c'è dietro. Oggi mancano dei progetti, manca un senso del lavoro, le persone sono il più delle volte attonite o comunque poco coinvolte. Nelle imprese noi abbiamo bisogno di ritrovare il senso delle cose. Il senso delle cose non può essere che noi lavoriamo per semplicemente perché qualcun altro possa avere dei dividendi. Noi dobbiamo lavorare perché il senso del nostro lavoro sia concreto e noi si possa essere dei contributori di progetti più grandi, più alti, più pieni di valori. Ecco, questo è un po' il senso che manca oggi nelle organizzazioni. Ecco, il senso che dovrebbe essere un senso del management, ma fare il manager è una cosa che si impara, è una cosa che si insegna, è una cosa che si impara sul campo. Come si distingue il vero manager in una società che, insomma, negli ultimi tempi si è detto più che meritocratica, è una società mediocratica, una società che apprezza le mezze misure, apprezza i compromessi, apprezza il modo un po' di adattarsi più che quelli che danno un'eccellenza e che poi in fondo rompono un po' le scatole. Sicuramente il conformismo sta vincendo sul merito. E questo è un grave limite sia delle organizzazioni che di tutta la nostra società. Però c'è un'epica del leader che è molto retorica, cioè le aziende comunque fanno cose normali con gente normale, non c'è mai il grande leader che come Carlo Magno fa delle cose, delle imprese incredibili. Qualche volta c'è, ma allora ne parliamo di due o tre al mondo. Tutte le altre aziende fanno delle cose normalmente buone quando le persone hanno chiarezza di obiettivo e sanno che cosa fare e possono agire le loro competenze. Questa epica del leader, secondo me, è molto fuorviante. Ecco, c'è un capitolo che è molto interessante, quasi sorprendente, che è quello sul curriculum, che parte dal curriculum di Leonardo da Vinci, che scrisse nel 1482 a Lodovico il Moro per presentare appunto le proprie capacità, le proprie competenze, ed è un curriculum in 10 punti, abbastanza complesso. Perché è interessante questo curriculum, Paolo Iacci? Questo è bellissimo, secondo me da solo varrebbe il libro, perché vedere come il curriculum di Leonardo fa capire molte cose. Leonardo si propone per un lavoro e capisce di che cosa ha bisogno il suo futuro signore, e per 9 di questi 10 punti parla delle sue competenze in ambito militare, cosa che era sì presente ma assolutamente secondaria, però era molto più importante per il suo interlocutore. Però nel farlo fa capire anche che ci può essere un'estetica di questo e un'intelligenza in questo. L'ultimo punto parla invece del cavallo, certo, con cui avrebbe potuto glorificare nel tempo il suo futuro signore, e anche questo titilla un po' la vanità del suo interlocutore. In tutto questo però non c'è soltanto, perché potrebbe essere letto come una piaggeria da parte di Leonardo, e non è così, è soltanto una grande capacità, una grande intelligenza nell'ascoltare, nel capire i bisogni del suo interlocutore e come dire, vendere tra virgolette al meglio, fare un bel packaging del suo curriculum, cosa che molte volte chi cerca un posto di lavoro si dimentica di fare. Sì, quindi cerca appunto di assecondare le competenze sue con quelle, con le esigenze del proprio possibile datore di lavoro, illustrandole anche con una certa enfasi, e poi conclude dicendo che se alcune delle cose che ho elencato dovesse apparire impossibile o irrealizzabile, mi dichiaro prontissimo a darne dimostrazione pratica nel vostro parco, in qualunque luogo piacerà a vostra eccellenza, cui umilmente mi raccomando. Ecco, forse una chiusa così adesso non sarebbe più di attualità. Però, tolto dal contesto, è un modo per dire che lui era pronto a far vedere concretamente le sue capacità, ed era Leonardo. I curriculum servono ancora nelle aziende. Per Bacco se servono, sì sì, servono. Assolutamente. Pensare che il digitale vanifichi tutto è un errore, poi noi alla fine siamo esseri umani con cose semplici, vogliamo capire. Comunque le aziende poi verificano su Facebook la persona, quali sono le... C'è la cosiddetta web reputation, sono... Molte volte bisogna stare attenti quando si cerca un lavoro su che cosa la rete dice di noi. Difficile poi cancellare le cose, per cui forse sarebbe meglio non mettere certe... Essere cauti. Essere cauti. Non si sa mai. Non si sa mai. Ecco, mettere sulla rete certe indicazioni, anche private, forse può essere... può compensare la vanità, ma poi può avere anche degli effetti certamente diversi. In conclusione, Paolo Iacci, questo libro è consigliabile a chi vuole imparare un po', appunto, in maniera semiseria, a vivere anche la propria realtà aziendale come qualcosa, comunque, che è qualcosa di costruttivo, qualcosa da cui si può trovare anche, si possono trovare degli elementi di creatività, in fondo questa è la prospettiva delle persone. Sì, e soprattutto chi vuole riflettere sul proprio lavoro facendosi anche una sana risata, perché no? Ecco, sì, prendere un po' seriamente, ma anche alla leggera le cose che si fanno. Nulla è drammatico, tutto speriamo si possa risolvere, soprattutto nei confronti delle persone. Io ringrazio Paolo Iacci. Grazie mille. Di essere stato con noi questa sera. Ricordo il libro di cui abbiamo parlato, Alfabeto del Leader, compendio semiserio per manager colti. Io ringrazio anche Paolo Corleone in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.